Ma questo è da rifare. Vedi, ma è tutto vuoto. Sì, è vero. Spero che sia solo un po' di sacchetto. Non è quello che sono tutto. Va bene. Allora. Questo qua vabbè, era 20. Io te lo faccio pagare come se te lo facessi. Tanto prima o poi lo prendo, no? Hai voglia, io sì. Lo voglio. E questo... queste cose, senti, se vuoi venire già domani... Ti dici per la biancheria. Ti serve. Se no te li faccio trovare tutto quello che vuoi. Sì. Comunque ci sentiamo come sai. Sì, ma che Dani, non ho necessità, urgenza di nulla, d'accordo? Va benissimo. Quindi quando sei pronta, con calma. Ok. Ciao, ciao. Ciao, ciao.